La giornata di oggi, dedicata ai bambini per la prevenzione della cecità, si deve al fatto che ancora nel mondo e in Italia vi sono moltissimi non vedenti e ipovedenti. Nel mondo, per riferirmi ai bambini, abbiamo 8 milioni di bambini non vedenti e abbiamo più di 20 milioni di bambini ipovedenti. In Italia non abbiamo i dati precisi relativi ai bambini, però i ciechi sono 362.000 e gli ipovedenti più di 1 milione. Quindi la prevenzione della cecità si impone, perché la vista è il bene più importante dell'uomo. Ricordiamo, avvocato Castronovo, che in 8 casi su 10 la disabilità visiva potrebbe essere evitata. Proprio questo è che dobbiamo diffondere, comunicare e convincere genitori, insegnanti, tutti i cittadini, perché la vista, ripeto, va tutelata. Aristotele diceva che la vista è il senso più amato dall'uomo, quindi va tutelata sempre, in particolare per i bambini, perché i vizi visivi fino a 10-12 anni sono reversibili, quindi quasi tutti evitabili. L'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità ha organizzato per la Giornata Mondiale della Vista, in occasione della giornata, delle iniziative. Vogliamo ricordarle per metterle a disposizione dei nostri ascoltatori? In 70 città d'Italia siamo presenti nelle scuole distribuendo degli opuscoli molto carini, con giochi quasi, dato che sono rivolti a tutti i bambini, e quindi facciamo degli screening anche nelle scuole, proprio per rilevare ove esistono i difetti visivi dei bambini. Il 34% degli alunni portano gli occhiali, quindi si vede che hanno dei problemi alla vista. Voglio ricordare il numero verde della IAPB, 800 06 8506, un numero verde di consulenza oculistica telefonica gratuita. Il servizio, lo ricordo, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. L'oculista risponde anche al forum. Potete anche iscrivervi alla newsletter della IAPB Italia Onlus. Avvocato, buona giornata mondiale della vista allora. Grazie. Siamo a disposizione di tutti i cittadini per qualunque bisogno e per qualunque informazione loro necessitano.